chiedo scusa a Dante Boccaccio se mi esprimo in volgare senza tatto. Sono un mutamento della lingua italiana, non ho voglia di studiare inglese solo per installare elettrodomestici in casa. Adulatori nella boccia video col capo sì di merda lordo. Adulatori nella poggia VDU col capo sì di merda lordo. Adulatori nella poggia VDU col capo sì di merda lordo. Adulatori nella poggia VDU col capo sì di merda lordo. Pestare una merda porta fortuna, pestare una merda con chi si ama, pestare una merda d'uomo è giunto il momento. Del ventre Andreuccio, dove posso diporre il superfluo peso del ventre. Adulatori nella boccia VDU col capo sì di merda lordo. Adulatori nella boccia VDU col capo sì di merda lordo. Adulatori nella boccia VDU.